Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, qui lo ripetiamo spesso, qui a Smart City l'efficienza energetica conviene, investire nel rendere più efficiente la propria abitazione, ovviamente a patto di fare interventi sensati, genera risparmi che nel tempo ripagano l'investimento e infine generano un guadagno netto. Eppure le ristrutturazioni profonde, cioè quelle che portano a una riduzione sostanziale dei consumi energetici, sono pochissime, pochi punti percentuali. Perché? Perché per esempio il circuito del credito fatica a capire e a valutare il rischio di questo tipo di interventi, perché la cultura dell'efficienza è ancora insufficiente e la manodopera spesso impreparata ad applicare sul campo le ultime tecnologie, perché le assemblee condominiali sono degli sfogatoi dove non si prendono decisioni. Tutto vero, ma c'è un perché più importante degli altri. Un dato elementare, se vogliamo: l'investimento iniziale è molto elevato. Riqualificare un edificio oggi costa come costruirne uno da zero praticamente. Infatti, mentre per le costruzioni nuove esistono ormai molti approcci industriali molto efficaci, le ristrutturazioni sono attività ancora in gran parte, insomma, artigianali. Ebbene, a Rebuild il 25 e il 26 giugno a Riva del Garda si affronterà proprio il tema di come approcciare industrialmente la riqualificazione degli edifici, con alcuni dei casi più significativi d'Europa. Ne parliamo con Thomas Miorin, che è direttore di Habitech, il distretto tecnologico del Trentino per l'energia e l'ambiente, che è l'organizzatore principale di questo evento. Benvenuto Thomas. Grazie, buongiorno a voi. Intanto, voi avete fatto i conti. Per rispettare gli accordi sulla riduzione di emissioni di CO2 al 2050, se ho capito bene, bisogna veramente darsi una mossa. Partiamo da qui. Assolutamente. Ci sono 18 milioni di abitazioni in Italia che sono da riqualificare e vanno riqualificate con un orizzonte temporale ben preciso, il 2050. Da qui al 2050 ci sono 18 milioni di minuti. Quindi i conti si fanno da soli. Significa fare una casa al minuto. E non solo riqualificare in modo così leggero, sì, non dargli una riverniciata come stiamo facendo, no? No, e l'approccio è totalmente diverso: una riqualificazione al minuto radicale, cioè una diminuzione dei consumi di almeno l'80% per ogni singola abitazione. E quindi cambio di approccio radicale. Allora vediamo qualche esempio che voi appunto porterete poi a Rebuild. Uno dei temi per cercare di dare insomma un'accelerata è di trovare delle soluzioni che evitino il trasloco degli abitanti, è così? Assolutamente, non si può pensare di spostare 18 milioni di famiglie. Bisogna lavorare sulle riqualificazioni che si fanno o in una settimana, due settimane, il tempo di una vacanza, o di saper lavorare con gli inquilini all'interno, con gli edifici occupati. Ecco, c'è qualche esempio che appunto si potrà poi vedere a Rebuild. Uno arriva dalla Francia. Sì, in Francia, a Parigi, in un condominio centralissimo, hanno dimostrato di saper riqualificare un edificio di oltre 80 appartamenti con calma in 4 anni, ma senza spostare nessun tipo di inquilino. La cosa interessante è che hanno lavorato moltissimo sulla relazione con gli inquilini, con una persona del team di costruzione che era dedicata al rapporto con gli inquilini. Quindi a contrattare probabilmente, anche oggi facciamo questo, domani facciamo quello, è così? Sì, e anche a mostrare i vantaggi e le motivazioni per cui fare gli interventi. Un altro esempio forse più eclatante che presenterete arriva invece dall'Olanda. Ci racconti? In Olanda hanno saputo dimostrare di poter fare una riqualificazione in un tempo poco superiore a una settimana. Quindi in 10 giorni hanno riqualificato in modo radicale delle abitazioni con un piano di 111.000 abitazioni in pochi anni. Una settimana di lavori con fondamentalmente un azzeramento delle bollette. Come fanno? Loro prendono un drone, scannerizzano l'edificio nel suo complesso. Quindi gli fanno volare intorno questo drone che fa una ripresa tridimensionale, sì, giusto? E ricostruiscono un modello digitale dell'edificio, centimetro per centimetro. Su questo predispongono un progetto di riqualificazione, costruiscono degli elementi industrializzati, delle componenti che vengono attaccate all'edificio. Quindi queste vengono realizzate in fabbrica su misura per quell'edificio, e questi componenti sono dei grandi pannelli con che cosa di speciale? Questi pannelli esterni sono dei pannelli con degli impianti al loro interno, quindi fondamentalmente vengono fatte tutte le pareti, tutti i tetti, producono energia, gestiscono energia per tutto l'edificio e producono anche comfort all'interno. Quindi l'operazione diventa semplicissima: tolgono gli infissi sostanzialmente, applicano al posto dei vecchi infissi questi pannelloni già con gli infissi pronti e tutto, finita la riqualificazione. E la cosa interessante è che dal giorno dopo la tua bolletta diventa il finanziamento per la riqualificazione. Quindi, ecco, garantiscono che per 30 anni tu continui a pagare la bolletta, ma quel pagamento di bolletta serve in realtà a pagare la riqualificazione. Assolutamente. Ecco, insomma, questo sembra però un punto di arrivo ormai. Non a caso dall'Olanda il progetto si sta trasferendo in Francia, in Inghilterra, e a Rebuilding cominciamo a ragionare insieme a una serie di interlocutori su come far approcciare l'Italia a questo tipo di progetti. Volevo capire, questo tipo di approccio è adatto magari a certi edifici ma non ad altri? Funziona bene magari col cubo di cemento, per capirsi, ma magari col palazzo vittoriano? No, lavorano su tutte le tipologie di edifici, lavorano su villette a schiera, lavorano su condomini terrazzati, quindi lavorano su un'ampia gamma di edifici. Va bene, grazie Thomas Miorin, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.